La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui alle 16.31, primi e 20 secondi. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto come sempre, in diretta o in podcast, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar Chioccio, radio24.it, da cui anche oggi, a dire la verità, scaturisce da vostre segnalazioni il tema della puntata, perché giustamente, così ve lo preannuncio immediatamente, chiedendovi e ricordandovi di intervenire al numero di telefono che è 800 24 00 24, mentre l'SMS 349 238 6666 per le vostre opinioni. Questa puntata, perdonate, colpo di tosse, colpa mia, è dedicata al fatto che dopo 2 anni, 23 mesi per essere precisi, al Senato va in aula, e appena terminato l'esame nelle commissioni, il disegno di legge delega del riordino del terzo settore. Quindi questa è una trasmissione di servizio volta a capire, dopo 2 anni che era stato annunciato ed era partito l'iter, era stato annunciato con grande enfasi e importanza dal Presidente del Consiglio ad aprile del 2014, quindi e con grande importanza, perché sapete che nella stessa evoluzione personale di Matteo Renzi, questo è un settore al quale dedicare grande attenzione. Io condivido questo, però la legge delega ha avuto un iter, diciamo così, accidentato, stante anche il calendario parlamentare che è occupato dai decreti del governo, e quindi dopo la consultazione generale che c'è stata sugli indirizzi guida del disegno di legge, siamo arrivati al disegno di legge. La Camera ha avuto un esame lunghissimo, è arrivato al Senato ad aprile dell'anno scorso, quindi è già passato 11 mesi da che è arrivato al Senato. Anche qui calendario zoppicante per priorità di ordine diverso. Ora si è concluso l'esame nelle commissioni, quindi si è pronti al voto d'aula. Dovrà ovviamente tornare alla Camera e sentiremo qual è la stima dei tempi. Speriamo che prima dell'estate si possa avere questa legge delega, che dovrà poi essere attuata naturalmente con i decreti legislativi nell'anno successivo da parte del governo. È una materia molto importante, perché stiamo parlando, lo dico in pochissime parole perché poi do la parola agli ospiti, però di una cosa che sta particolarmente a cuore non a me solo personalmente, ma a circa 6 milioni di italiani volontari che sono impegnati a forma diversa, a titolo diverso, in questo straordinario patrimonio di energie civili che è il mondo del terzo settore italiano, a fini di sostegno verso chi sta male, di integrazione del welfare pubblico, per l'ambiente, per il nostro patrimonio culturale, per il sostegno e l'integrazione degli immigrati. È una realtà fondamentale che descrive l'attivazione dal basso di energia nel nostro paese. E c'era un grande problema di riorganizzazione delle norme che presidono questo settore per renderle più adeguate. In poche parole, perché questi 10 articoli in realtà è condensato una pluralità di problemi molto importanti, si trattava di superare la vecchia impostazione innanzitutto giuridica del nostro codice civile, il titolo 2 del codice civile, che non contemplava l'esistenza di un terzo settore privato non a scopi di lucro e che divideva il mondo in due, seccamente, tra pubblico e privato. Si trattava di superare la norma che a propria volta poi subì 8 anni di dibattito parlamentare all'inizio degli anni 90 per il servizio civile. Si trattava di capire quale disciplina fiscale dare ai soggetti, dopo averli ben definiti, del terzo settore. Si trattava altresì, visto quello che è successo in questi 2 anni, tanti scandali, l'indagine delle procure, mafia capitale, di capire bene quali fossero le intersezioni rispetto alla disciplina e alle modifiche della disciplina dell'impresa sociale e cooperativa. Si trattava inoltre di capire quali obblighi di trasparenza e pubblicità dare a questi soggetti del terzo settore, con un vero e proprio registro, ma vedendo come è organizzato, di decidere se dare poi vita, trasformando una cosa esistente, a un'agenzia del terzo settore, a una vera e propria autorità, oppure a una fondazione, come il governo recentemente aveva anche per alcuni fini proposto. Quindi, come vedete, c'è una congerie di problemi in tutto questo, molto molto importanti, che hanno prodotto moltissimi emendamenti, centinaia e centinaia di emendamenti sia alla Camera che al Senato. Allora, noi tentiamo oggi, in questi pochi minuti che abbiamo, di capire a che punto stanno le cose, e quindi per farlo noi abbiamo da una parte chi per il governo insieme a Bubbico ha seguito passo passo sia alla Camera che al Senato l'evoluzione del testo, e che a propria volta ha un percorso personale totalmente coerente e integrato rispetto alla rilevanza che in un paese civile deve avere e ha di fatto nel nostro paese il terzo settore, cioè Luigi Bobba, che è il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, Bobba. Buon pomeriggio, grazie. E poi, collegato al telefono dal Mozambico, siamo ricorsi di nuovo a un soggetto delle migliaia e migliaia del terzo settore italiano, con cui abbiamo già fatto una trasmissione alla fine dell'anno scorso per dare conto dei programmi in cui è impegnato per tentare di risolvere non solo qua i problemi dell'integrazione degli immigrati, ma per programmi di assistenza diretta e formazione nei paesi non ancora sviluppati, da cui poi alcuni provengono. E quindi è collegato, lo ringrazio per questo, dal Mozambico con noi il segretario generale dell'Associazione dei Volontari per il Servizio Internazionale, la VSI, Giampaolo Silvestri. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. Silvestri, io parlerei innanzitutto con lei, visto che abbiamo con noi il sottosegretario, poi al sottosegretario faccio qualche domanda anch'io per capire alcuni almeno dei punti che ho citato, su cui più è stato aperto il dibattito, per vedere come la pensa e che cosa porteremo davvero a casa e quando. Però dal vostro punto di vista, rispetto allo stato attuale del testo, che immagino più o meno conosca, quali sono le positività e su che cosa invece a vostro giudizio ci sono ancora criticità su cui lavorare? Innanzitutto, questa legge delega ci voleva, su questo non c'è dubbio. Ci voleva, lo strumento della legge delega probabilmente è quello più adatto, perché poi consente di entrare nel merito di questioni molto particolari. La positività è che prova a fare ordine, a razionalizzare, a semplificare, entra nel codice civile, nella definizione di cos'è un'organizzazione del terzo settore, l'idea di fare un apposito codice del terzo settore, l'idea dell'impresa sociale, e quindi ampliando i settori, prevedendo una redditività, cioè, elementi positivi ce ne sono. Ci sono ancora alcune cose che, non dico criticità, ma che comunque poi bisognerà in qualche modo entrare nel merito. Bisogna vedere poi soprattutto come sono sciolte nei decreti, appunto, attuativi. Decreti, perché siamo al primo passo, perché poi, come ha detto lei, deve tornare alla Camera con i decreti. Secondo me l'aspetto fondamentale sul quale evidentemente la legge delega non entra nel merito è l'aspetto fiscale. Sì. Perché comunque io ritengo che lì sia la chiave di volta. Condivido molto. Cioè, ricordo solo, prima di entrare nel merito, che anche per i fondi di dotazione Renzi, con l'ottimismo che lo contraddistingue, parlò annunciando questa cosa di 500 milioni l'anno, poi il fondo è andato 50 milioni, 30 milioni, insomma siamo a cifre di questo tipo. Ma noi non stiamo parlando del fondo di dotazione, noi stiamo parlando della disciplina fiscale per i soggetti. Dica Silvestri. Io credo che lì ci voglia un'estrema razionalizzazione e semplificazione, ovvero prevedere una misura unica di detrazione. Io ho l'idea del 50% di detrazione dell'imposta, eliminando tutti i vari regimi particolari che ci sono oggi per le imprese, i redditi, i limiti, che creano solo confusione, perché la semplificazione aiuta tutti. Una semplificazione 50% sulla detrazione del reddito d'imposta sia per i cittadini che per le imprese. È chiaro che va fatta per soggetti che ne hanno le caratteristiche, quindi la legge lo prevede, bilanci pubblici trasparenti, certificati, obbligo di rendicontazione sull'uso dei fondi pubblici, e queste cose ci vogliono, e poi i controlli. Io penso che forse, è chiaro, questo provocherà un minore entrate nelle casse dello Stato, però poi si può agire dall'altra parte su una riduzione di fondi pubblici oggi che sono destinati al terzo settore in varie miriadi di ministeri, eccetera, e quindi alla fine un vantaggio anche per lo Stato. Però penso che la chiave di volta sia l'aspetto fiscale, perché poi tutti gli altri aspetti toccati sono positivi. Adesso però non so, le ultime discussioni, io da fare al Mozambico ho letto qualcosa ci sono stati. Sì, sì, immagino non abbia avuto il modo di vedere, insomma, in commissione che cosa poi l'approvazione in commissione, le ultime modifiche, per così dire. E le chiediamo al sottosegretario. Intanto a Bobba chiederei, diamo una prima risposta a questo punto specifico della disciplina fiscale sollevato da Giampaolo Silvestri. Secondo lei, allo stato attuale, e naturalmente con la riserva, vedremo alla Camera poi quale altre modifiche interverranno, speriamo non troppe, perché sennò il va e vieni del bicameralismo chissà quanto tempo ci fa ancora passare, che tipo di disciplina fiscale per i soggetti, una volta che li abbiamo inquadrati, come sta scritto nella legge, si può davvero immaginare, Bob? Ah, guardi, intanto voglio salutare Giampaolo Silvestri dal Mozambico, un paese che mi è molto caro, sì. Un po' perché ho una figlia che lavora e vive là, e soprattutto perché quando ero presidente delle ACRI, lei ha ricordato il mio, sì, percorso precedente, abbiamo realizzato quella che adesso oggi è una delle più grandi scuole professionali che ci sono in Mozambico. E sulla materia fiscale certamente il tema è molto importante, e credo che quel riordino che Giampaolo Silvestri invocava potremo farlo, perché abbiamo delle deleghe piuttosto importanti. Una delega riguarda per esempio il 5 per 1000, oggi abbiamo più di 40.000 beneficiari, forse dovremmo andare a vedere se sono effettivamente tutti alla luce dei nuovi criteri proprio che, sì, la legge delega introduce, perché per la prima volta terzo settore non sarà più un'espressione sociologico-descrittiva, ma sarà una descrizione, articolo 1 della legge, che darà un carattere normativo, diciamo, a chi sono questi enti privati di terzo settore. E questo serve anche a impedire, lo dico ai nostri ascoltatori, siccome uno dei refrain giustificato anche a volte da quello che si legge ovviamente nelle indagini, procure e così via, e gli impropri incentivi e vantaggi che vengono dati, no, nel no profit ad associazioni, soggetti comunque che magari sotto questo scudo svolgono ben altre attività, questa legge serve innanzitutto, e il sottosegretario Bobba sta parlando proprio di una garanzia perché questo non avvenga, a partire dai criteri identificativi per l'accesso a 5 per 1000, che io mi auguro però venga stabilizzato una volta per tutte, che non si debba aspettare due anni dopo il MEF che ci dica due anni prima quant'è la norma di tetto massimo per la distribuzione del 5 per 1000. Lei che dice? No, no, intanto il 5 per 1000 è già stato stabilizzato, c'è un fondo di 500 milioni in forma strutturale, e quindi diciamo questo è già stato fatto, è una delle cose che è già state fatte prima di questa stessa legge, nella cosiddetta legge di stabilità. Sarà importante che, diciamo così, quel criterio anche di pubblicità e di rendicontazione dei beneficiari sia effettivamente applicato, perché se un cittadino destina questi soldi è giusto che sappia come vengono impiegati. Lei ha sentito la percentuale di detrazione? No, non la voglio interrompere, glielo ricordo solo. Però lei ha sentito che Silvestri ha fatto una percentuale di detrazione uguale per le persone fisiche e giuridiche, cioè per le imprese nei suoi auspici, importante, insomma. Sì, guardi che nella legge di stabilità già abbiamo fatto una modifica che va nella direzione che diceva Silvestri, e cioè la percentuale di detrazione è stata portata dal 19 al 26%, sì, e la soglia massima da poco più di 2.000 euro a 30.000 euro. Quindi diciamo c'è già un passo stato è stato compiuto. Vedremo che, diciamo, risultati dà questa maggiore incentivazione. Certo, l'auspicio di Silvestri posso anche condividerlo. Il problema poi è il MEF, sentire il MEF cosa dice. Voglio anche ricordare, a proposito di cifre, che oltre i 500 milioni stabilizzati, questa legge, questa delega, ha nelle leggi di stabilità 2016, 17 e 18 140 milioni quest'anno, 190 milioni per i due anni successivi. Aggiungo anche che nel frattempo, lei ha ricordato i 500 milioni di Renzi, che nel frattempo con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il lavoro è stato istituito un fondo di garanzia rotativo, sì, per le imprese e le cooperative sociali. Insomma, chi vuole investire potrà avere, diciamo, disponibilità in termini di prestito, di credito, ad un tasso quasi vicino allo zero, lo 0,50. Quindi complessivamente abbiamo comunque mobilitato un insieme di risorse che vale circa 900 milioni. Non è diciamo magari tutto quello che ci si può no però rispetto a prima però insomma rispetto il segnale prima. La direzione mi sembra allora io le chiederei di spiegare ai nostri ascoltatori dai quali è ovvio non bisogna pretendere se non sono del terzo settore se non se ne occupano specificamente di capire i dettagli di quello che stiamo parlando però ci sono due questioni sulle quali dopo il minuto che abbiamo adesso l'interruzione per il traffico stradale chiedo al sottosegretario Bobba di tentare di capire di spiegarci come funzionerà, come dovrebbe funzionare il nuovo regime di tra virgolette trasparenza, cioè chi presiederà al rispetto di questi criteri, appunto, che cosa farà l'agenzia, perché non un'autorità, perché il governo pensava, anche se per fare una cosa diversa, a una vera e propria fondazione e da quello che ho capito, almeno al Senato ci ha provato, però per il momento ha fatto marcia indietro su questa proposta. Ecco, sul regime dei controlli della trasparenza, proprio per evitare nuove polemiche, secondo me bisogna essere cristallini. La risposta di Bob, e poi torniamo alla Silvestri, tra un minuto, ora strada. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando della riforma del terzo settore, cioè della legge delega che dopo 23 mesi, un anno alla Camera, un anno al Senato e adesso arriva al voto in aula del Senato, dovrà tornare alla Camera, poi bisognerà sperare in una rapida emanazione dei decreti legislativi di attuazione. Il punto che chiedevo al sottosegretario Bobba, che è con noi insieme a Giampaolo Silvestri, che è il segretario generale dell'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che ci chiama dal Mozambico, è collegato col Mozambico, stavo chiedendo a Bobba di spiegare a chi è in ascolto allo stato attuale che cosa si è deciso davvero di individuare come soggetto demandato proprio a quei criteri di controllo e di trasparenza, dei nuovi criteri anche per il bilancio sociale, di remunerazione del capitale e così via, allo stato attuale della legge. Chi sarà questo soggetto e con che tipo di potere? Allora, spiego semplicemente in quattro mosse. Prima mossa è l'articolo 1 che definisce chi sono i soggetti di terzo settore. Devono avere determinate finalità, devono svolgere attività di interesse generale, devono farlo in forma gratuita e volontaria, mutualistica o di utilità sociale. Secondo, l'istituzione di un registro unico degli enti di terzo settore. Oggi ce ne sono 33, non si capisce bene chi siano questi soggetti tante volte, ne avremo uno con criteri univoci. Se tu vuoi accedere a dei benefici fiscali, a dei bandi pubblici, a dei sostegni di natura pubblica, devi essere iscritto a questo registro. Per essere iscritto a questo registro deve avere determinate caratteristiche, insomma un filtro univoco che non consenta, diciamo, di sgattaiolare. Terzo aspetto, alla direzione competente formazioni sociali e terzo settore del Ministero del Lavoro saranno attribuiti un sistema di controlli delle realtà del mondo di monitoraggio e di controllo delle realtà del terzo settore. Contemporaneamente però abbiamo anche previsto un sistema, diciamo così, di autocontrollo. Ricordiamoci che l'Istat ci ha informato che più dei due terzi di questi soggetti, dei 300.000 soggetti di cosiddetti enti di terzo settore, più dei due terzi hanno bilanci sotto i 30.000 euro. E allora forse conviene, attraverso i centri di servizio del volontariato, attraverso le associazioni con un profilo accreditato, di fare un sistema di accompagnamento di queste tante piccole realtà. Poi noi dovremo, diciamo, accendere i fari, fare degli zoom più precisi su quel 4,5% del totale di questi 300.000 che invece però sono quelli che producono l'81% del cosiddetto fatturato di terzo settore. Forse lì un'attenzione maggiore ci vuole. Per il resto serve più, diciamo, creare delle condizioni positive perché questa spinta all'impegno volontario si rigeneri continuamente e non si perda per strada. Perché, Bobba, nel dibattito parlamentare tantissimi emendamenti radicalmente diversi su una delle formule organizzative che erano identificate per il coordinamento delle azioni del terzo settore, cioè i centri di servizio del volontariato identificati territorialmente? Come mai è stato quello uno dei punti più aperti? Ma perché oggi sono, sulla base della vecchia legge del 266 delle organizzazioni di volontariato e su finanziamento di una parte della rendita delle fondazioni bancarie, sono un'infrastruttura distribuita sul territorio, sono 76 questi centri di servizio. Ora noi abbiamo ridisegnato le loro funzioni, la loro compagine, le loro modalità da operare, perché effettivamente possono essere un aiuto, un compagno di strada, un agente di sviluppo di quella miriade di tante piccole realtà associative e volontarie che ci sono in tutti i nostri territori. Non sono poche le grandi reti nazionali. Il grosso, diciamo, del corpo del terzo settore è fatto da realtà di piccole dimensioni. Allora queste realtà hanno bisogno di avere in qualche modo un tutor, un qualcuno che li accompagni nell'essere capaci di lavorare insieme con gli altri, cosa che non sempre accade, e di fare bene pochi adempimenti che abbiamo previsto nella legge, compresi anche quelli di bilancio. Insomma, quindi forse l'attenzione è stata dedicata perché possono essere insieme un forte volano di sviluppo delle associazioni e del volontariato, e dall'altro lato accompagnare anche questo processo di trasparenza, di semplicità, di rendicontazione, che non metta mai in discussione i valori. Cui queste realtà sono costituite. Lei che tempi prevede con il calendario della Camera più o meno immaginato, visto che poi quando arriva l'autunno c'è la sessione di bilancio e così via? Ce la si fa entro quest'anno, secondo lei? Ma guardi, se tutto va bene, la prossima settimana l'Aula del Senato dovrebbe, diciamo così, votare in seconda lettura questo testo. Poi avremo un passaggio alla Camera, diciamo, non in cui almeno l'intenzione del governo che non ci siano altre modifiche. È un passaggio necessario perché al Senato ci saranno interventi di modifica rispetto alla prima lettura della Camera. Se così va, io penso che, diciamo, in questa prima parte della primavera il testo dovrebbe essere diventare legge effettiva dello Stato, e quindi entriamo e poi nella siamo fase. Siamo pronti, esatto, già ai blocchi mesi di partenza, esatto, per scrivere i decreti. Noi comunque continueremo a fare trasmissioni perché ritualmente io le faccio. Questa è una delle riforme più importanti per l'età, secondo me, per come la penso e per quello che ho visto nel volontariato, a chi sta male, agli anziani e così via, i miei oramai non più verdi anni. Voglio fare una domanda secca finale a Giampaolo Silvestri, con l'impegno anche con lui e con la sua associazione di risentirci. Io sono un sostenitore della necessità di ripotenziare il servizio civile dei giovani, come fin dall'inizio, in questa riforma. Silvestri, alla luce della sua esperienza, come la pensa? Non sarebbe bene avere un contingente 40-50 mila giovani almeno ogni anno tra i 18 e i 28 anni, dandogli un ruolo importante e fondamentale per tutto quello che fate? Ma assolutamente sì. Guardi, io mi trovo qua in Mozambico e noi qua come AVSI abbiamo proprio due ragazze che stanno facendo il servizio civile, che stanno finendo e stanno facendo una bellissima esperienza umana, professionale, che sicuramente nella vita gli sarà utile sia appunto come crescita umana sia come esperienza. E infatti la legge mira anche a valorizzare per il futuro poi dell'evoluzione dei CV, del profilo professionale eccetera eccetera per i giovani questa cosa. Io credo profondamente che questo sia uno strumento di coesione sociale dal basso. L'Italia l'ha messo in piedi malgrado la disattenzione della politica. Io ringrazio personalmente Luigi Bobba per l'impegno che ci ha messo in questi due anni insieme, e lo ringraziamo tutti quelli che credono nel volontariato. Continuate su Radio 24, grazie ai nostri ospiti, appuntamento 8:15 ogni mattina con me, Alessandro Mina, attenti a noi due.